L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Ottava puntata. Mandricardo rapisce Doralice. Lettura poetica di Giancarlo Sbragia. Narratore Gianni Bonagura. Valore e grandezza d'animo sono nell'Orlando Furioso equamente distribuiti tra cristiani e maomettani, e lo stesso si dica per le debolezze umane. Ma come abbondanza d'ammazza sette, di soldatacci giganteschi, brutali e millantatori, non c'è dubbio che la bilancia pende tutta dalla parte del campo saraceno. Non per niente i nomi di alcuni dei campioni di re Agramante, come Gradasso, Rodomonte, Sacripante, sono diventati epiteti usuali della nostra lingua. Ma il ruolino completo dei guerrieri mori costituisce una specie di calendario di appellativi dal terrificante fragore. Cosicché, quando Agramante, preoccupato per le troppe perdite tra le sue truppe, decide di passarle in rivista per fare i conti delle forze di cui dispone, le strofe ariostesche rimbombano come tamburi. Come di capitani bisogna ora che re di Francia al campo suo proveggia, così Marsilio ed Agramante allora, per dar buon reggimento alla sua greggia, dai lochi dove il verno fe dimora vuol ch'in campagna all'ordine si veggia, perché vedendo ove bisogno sia, guida e governo ad ogni schiera dia. Marsilio prima, e poi fece Agramante passar la gente sua schiera per schiera. I catalani a tutti gli altri in ante di Dorifebo van con la bandiera. Dopo vien senza il suo re Folvirante, che per man di Rinaldo già morto era, la gente di Navarra, e lo re ispano alle dato Isolier per capitano. Balugante del popol di Leone, Grandonio cura degli Algarbi piglia. Il fratel di Marsilio, Falsirone, a seco armata la minor Castiglia. Seguon di Madarasso il Gonfalone, quei che lasciato a Malaga e Siviglia, dal mar di Gade a Cordova feconda le verdi ripe, ovunque il Beti in onda. Stordilano e Tesira e Baricondo, l'un dopo l'altro mostra la sua gente. Granata al primo, Ulisbona al secondo, e Maiorica al terzo è ubbidiente. Fu d'Ulisbona re, tolto dal mondo Larbin, Tesira di Larbin parente. Poi vien Galizia, che sua guida invece di Maricoldo Serpentino fece. Quei di Toledo e quei di Calatrava, di ch'ebbe Sinagon già la bandiera, con tutta quella gente che si lava in Guadiana e bee della riviera, l'audace Matalista governava. Bianzardin, quei d'Asturga in una schiera con quei di Salamanca e di Piacenza, Davila, di Zamora e di Palenza. Di quei di Saragossa e della corte del re Marsilio a Ferraù il governo. Tutta la gente è ben armata e forte. In questi è Malgarino, Balinverno, Malzarise e Morgante, ch'una sorte avea fatto abitar paese esterno. Che, poiché i regni lor furon tolti, li avea Marsilio in corte sua raccolti. In questa è di Marsilio il gran bastardo, Follicon d'Almeria, con Doriconte, Bavarde e Largalifa ed Analardo, ed Archidante, il Sagontino Conte, e l'Amirante, e l'Anghiran Gagliardo, e Malagur, c'avea l'astuzie pronte, ed altri, di quai penso dove tempo sarà di far veder le prove. Poi che passò l'esercito di Spagna con bella mostra innanzi al re Agramante, con la sua squadra apparve alla campagna il re Doran, che quasi era gigante. L'altra che vien per Martasin si lagna, il qual morto le fu da Bradamante, e si duol ch'una femmina si vanti d'aver ucciso il re de Garamanti. Segue la terza schiera di Marmonda, Cargosto morto abbandonò in Guascogna, A questa un capo, come alla seconda e comanco alla quarta, dar bisogna. Quantunque il re Agramante non abbonda di capitani, pur ne finge e sogna. Dunque, Buraldo, Ormida, Arganio elesse, e dove uopo ne fu, guida li messe. Diede ad Arganio quei di Libicana, che piangea morto il negro Dudrinasso. Guida Brunello i suoi di Tingitana, con viso nubiloso e ciglio basso, che, poiché nella selva non lontana dal castel che ebbe Atlante in cima al sasso, gli fu tolto l'anel da Bradamante, caduto era in disgrazia al re Agramante. E se il fratel di Ferraù Isoliero, che all'arbore legato ritrovollo, non facea fede innanzi al re del vero, avrebbe dato in sulle forche un crollo. Mutò a prieghi di molti il re pensiero, già avendo fatto porgli il laccio al collo. Glielo fece levar, ma riserbarlo pel primo error, che poi giurò impiccarlo. Si cavea causa di venir Brunello col viso mesto e con la testa china. Seguia poi Farurante, e dietro a quello eran cavalli e fanti di Maurina. Venia Libanio appresso il re Novello. La gente era con lui di Costantina, peroché la corona e il baston d'oro gli ha dato il re, che fu di Pinadoro. Quei di bella marina, che Gualciotto solea guidare, or guida il re d'Algeri, Rodomonte, e di Sarza, che condotto di nuovo avea pedoni e cavalieri. Che mentre il sol fu nubiloso sotto il gran centauro e i corni orridi e fieri, fu in Africa mandato da Agramante, onde venuto era 3 giorni innante. Non avea il campo d'Africa più forte, né Saracin più audace di costui, e più temean le parigine porte, ed avean più cagion di temer lui che Marsilio, Agramante e la gran corte che avea seguito in Francia questi due, e più d'ogni altro che facesse mostra, era nemico della fede nostra. Vien Prusione, il re dell'Alvaracchie, poi quel della Zumara, Dardinello. Non so s'abbiano o nottole o cornacchie, o altro manco ed importuno augello, il qual dai tetti e dalle fronde gracchie futuro mal, predetto a questo e a quello, che fissa in ciel nel di seguente e l'ora che l'uno e l'altro in quella pugna muora. Due capitani mancano all'appello, Alzirdo e Manilardo, uccisi in uno scontro con un cavaliere dalla sopravveste nera. Si tratta d'Orlando, il quale, sempre rincorrendo l'inafferrabile Angelica, era tornato d'Irlanda in Francia e cercava di mettersi la coscienza a posto per la sua lunga assenza dall'accampamento cristiano, sterminando ogni squadra di saraceni che gli capitava sulla strada. In campo non avevano altri a venire che quei di Tremisenne e di Norizia, né si vedea alla mostra comparire il segno lor, né dar di sé notizia, non sapendo Agramante che si dire, né che pensar di questa lor pigrizia, uno scudiero al fin gli fu condotto del re di Tremisen, che narrò il tutto. E gli narrò Calzirdo e Manilardo con molti altri dei suoi giacean al campo. «Signor», diss'egli, «il cavalier Gagliardo che ha ucciso i nostri, ucciso avria il tuo campo se fosse stato a torsi via più tardo di me, ch'appena ancor così ne scampo. Fa quel de cavalieri e dei pedoni che il lupo fa di capre e di montoni». Ma il campo maomettano ora contava un nuovo campione, Mandricardo, re di Tartaria, il quale combatteva solo con la lancia, perché pensava che nessuna spada fosse degna di lui se non quella d'Orlando, la famosa Durlindana. Appena sente parlare della carneficina d'Orlando, Mandricardo parte per cercarlo e conquistarsi la Durlindana. Seguire le tracce d'Orlando è facile. Dove si trovano cadaveri fatti a pezzi, ossa, armi sparse, cavalli sbudellati, di là è passato il paladino. Invece Mandricardo fa tutt'altro incontro. Su un praticello ombroso in riva a un fiume c'è un accampamento con in mezzo una tenda tutta frange e pizzi custodita da uno stuolo d'armati. Mandricardo apprende che accompagnano la figlia del re di Granata, Doralice, la quale va sposa a Rodomonte, re di Sarza e d'Algeri. «E che aspettate lì al fresco?» «Che vada giù un po' il sole, signor», rispondono le guardie granatine, «perché noi si vuol viaggiare più sul fresco». «E questa reginetta la tenete nascosta?» «Finché cantano le cicale, dorme, poi si sveglia». «Me la fareste vedere solo un tantino così di tra i lembi della tenda?» chiede Mandricardo. Le guardie granatine gli ridono in faccia. «Il sole deve avervi dato volta alle cervella, signore». Mandricardo non era tipo da lasciarsi dire cose di questo genere. Un colpo di lancia all'uno, un altro all'altro, e non si ferma più finché non ha ridotto la lancia a un troncone. E ancora con questo troncone fa più strage che con la lancia intera. Ora la tenda di Pizzo era circondata solo di cadaveri. Doralice, alla vista di un gran guerriero moro, lordo di sangue dalla testa ai piedi, cacciò un urlo. Ma l'impressione di Mandricardo era ancor più forte a vedere quella delicata bellezza. Cadde innamorato in quel medesimo istante. «Via, via!» disse alle dame e damigelle e ai servi del seguito. «Tornatevene a Granata! Per la principessa basto io! Le farò da cameriere, da maggiordomo, da balia! Tutto io!» Fece salire Doralice su un cavallino scozzese, di quelli che chiamano hobby, in italiano ubino, e partirono. Mentre cavalcava al suo fianco le disse: «Cosa conta per te al mondo? L'amore? Ebbene, io t'amo! La nobiltà? Io sono il re dei Tartari! La ricchezza? Sono il sovrano più ricco del mondo. Il valore? Aspetta a vedermi alla prova e saprai». Erano argomenti che non facevano una grinza. La principessa Doralice smise di piangere. Del resto, il suo promesso sposo, Rodomonte, non si poteva dire che fosse un tipo molto più fine. E questo Mandricardo, per quanto prepotente, era certo un uomo deciso ed espansivo. Doralice sorrise e lo guardò come per dire: «Se è così...» Era venuto pochi giorni avante nel campo del re d'Africa un signore, né imponente era né in tutto Levante, di più forza di lui né di più core. Gli facea grande onore il re Agramante per esser costui figlio e successore in Tartaria del re Agrican Gagliardo. Suo nome era il feroce Mandricardo. Per molti chiari gesti era famoso e di sua fama tutto il mondo empia, ma lo facea più d'altro glorioso ch'al castel della fata di Soria l'usbergo avea acquistato luminoso che Thor Troian portò mille anni pria per strana e formidabile avventura che ragionarne pur mette paura. Trovandosi costui dunque presente a quel parlar, alzò l'ardita faccia e si dispose andare in mantinente per trovar quel guerrier dietro alla traccia. Ritenne occulto il suo pensiero in mente, ossia perché d'alcun stima non faccia o perché tema, se il pensier palesa, qu'un altro innanzi a lui pigli l'impresa. Allo scudier fe dimandar com'era la sopravesta di quel cavaliero. Colui rispose: «Quella è tutta nera, lo scudo nero, e non ha alcun cimiero». E fu, signor, la sua risposta vera, perché lasciato Orlando avea il quartiero, che come dentro l'animo era in doglia, così imbrunir di fuor volse la spoglia. Marsilio a Mandricardo avea donato un destrier baio a scorza di castagna con gambe e chiome nere, ed era nato di frisa madre e d'un villan di Spagna. Sopra vi salta Mandricardo armato e galoppando va per la campagna e giura non tornare a quelle schiere se non trova il campion dall'arme nere. Molta incontrò della paurosa gente che dalle man d'Orlando era fuggita, chi del figliuol, chi del fratel dolente, chi innanzi agli occhi suoi perde la vita. Ancora la codarda e tristamente nella pallida faccia era scolpita, ancor per la paura che avuta hanno, pallidi, muti ed insensati vanno. Non fe lungo camin che venne dove crudel spettacolo ebbe ed inumano, ma testimonio alle mirabil prove che fu racconte innanzi al re africano. Or mira questi, or quelli morti, e muove e vuol le piaghe misurar con mano, mosso da strana invidia che gli porta al cavalier ch'avea la gente morta. Come lupo o mastin, ch'ultimo giugne al bue lasciato morto da villani, che trova sol le corna, l'ossa e l'ugne, del resto son sfamati augelli e cani, riguarda invano il teschio che non ugne, così fa il crudel barbaro in quei piani. Per duol bestemmia e mostra invidia immensa, che venne tardi a così ricca mensa. Quel giorno e mezzo l'altro segue incerto il cavalier dal negro e ne domanda. Ecco vede un pratel d'ombre coperto, che sì d'un alto fiume si ghirlanda, che lascia appena un breve spazio aperto, dove l'acqua si torce ad altra banda. Un simil luogo con girevo l'onda sotto tricoli il Tevere circonda. Dove entrar si potea? Con l'arme indosso stavano molti cavalieri armati. Chiede il pagan chi gli avea in stuol sì grosso, ed a che effetto insieme ivi adunati? Gli fe risposta il capitano, mosso dal signoril sembiante ed da fregiati d'oro e di gemme arnesi di gran pregio, che lo mostravan cavaliero egregio. Dal nostro re sian, disse, di Granata chiamati in compagnia della figliola, la quale al re di Sarza ha maritata, benché di ciò la fama ancor non vola. Come appresso la sera racchetata la cicaletta sia cor sode sola, avanti al padre fra le ispane torme la condurremo. Intanto ella si dorme. Colui che tutto il mondo vilipende disegna di veder tosto la prova se quella gente o bene o mal difende la donna alla cui guardia si ritrova. Disse, costei, per quanto se n'intende, è bella e di saperlo or mi giova. A lei mi mena o falla qui venire, ch'altrove mi convien subito gire. Esser per certo dei pazzo solenne, rispose il granatin, né più gli disse. Ma il tartaro a ferir tosto lo venne con l'asta bassa e il petto gli trafisse, che la corazza il colpo non sostenne e forza fu che morto in terra agisse. L'asta ricovra il figlio d'Agricane, perché altro da ferir non gli rimane. Non porta spada né baston, che quando l'arme acquistò che fu dettor troiano, perché trovò che lor mancava il brando, gli convenne giurar, ne giurò in vano, che finché non togliea quella d'Orlando, mai non porrebbe ad altra spada mano. Durindana, che al monte ebbe in gran stima, e Orlando or porta, e Thor portava prima. Grande è l'ardir del tartaro, che vada con disvantaggio tal contra coloro gridando, chi mi vuol vietar la strada? E con la lancia si cacciò tra loro, chi l'asta abbassa e chi tra fuor la spada, ed ogni intorno subito gli foro. Egli ne fece morire una frotta, prima che quella lancia fosse rotta. Rotta che se la vede il gran troncone che resta intero, ad ambe mani afferra, e fa morir con quel tante persone che non fu vista mai più crudel guerra. Come tra Filistei l'ebreo Sansone con la mascella che levò di terra, scudi spezza, elmi schiaccia, e un colpo spesso spenge i cavalli e i cavalieri appresso. Correno a morte quei miseri a gara, né perché cada l'un l'altro andar cessa, che la maniera del morire, amara, lor par più assai, che non è morte istessa. Patir non ponno che la vita cara, tolta lor sia da un pezzo d'asta fessa, e siano sotto alle picchiate strane a morir giunti come bisce o rane. Ma poi che a spese lor si furo accorti che male in ogni guisa era morire, sendo già presso agli due terzi morti, tutto l'avanzo cominciò a fuggire. Come del proprio aver via se gli porti il saracin crudel non può patire ch'alcun di quella turba sbigottita da lui partirsi debba con la vita. Come in palude asciutta dura poco stridula canna o in campo arida stoppia, contro il soffio di Borea e contro il fuoco che il cauto agricoltore insieme accoppia, quando la vaga fiamma occupa il loco e scorre per li solchi e stride e scoppia, così costor, contra la furia accesa di Mandricardo, fan poca difesa. Poscia che gli restar vede l'entrata che mal guardata fu senza custode, per la via che di nuovo era segnata nell'erba e al suono dei ramarchi code, viene a veder la donna di granata, se di bellezze è pari alle sue lode. Passa tra i corpi della gente morta, dove gli dà torcendo il fiume porta. E Doralice in mezzo il prato vede, che così nome la donzella avea, la qual su folta dall'antico piede d'un frassino silvestre si dolea. Il pianto, come un rivo che succede di viva vena, nel bel sen cadea, e nel bel viso si vedea che insieme dell'altrui mal si duole e del suo teme. Crebbe il timor come venir lo vide di sangue brutto e con faccia empia e oscura, e il grido sino al ciel l'aria divide di sé e della sua gente per paura, che oltre i cavalier v'erano guide che della bella infante aveano cura, maturi vecchi e assai donne e donzelle del regno di Granata e le più belle. Come il tartaro vede quel bel viso che non ha paragone in tutta Spagna, e c'ha nel pianto, orché serdene il riso, tesa d'amor l'inestricabil ragna, non sa se vive o in terra o in paradiso, né della sua vittoria altro guadagna se non che in man della sua prigioniera si dà prigione, e non sa in qual maniera. A lei però non si concede tanto che del travaglio suo le doni il frutto, benché piangendo ella dimostri quanto possa donna mostrar dolore e lutto. Egli, sperando volgerle quel pianto in sommo gaudio, era disposto al tutto menarla seco e sopra un bianco ubino montar la fece e tornò al suo camino. Donne e donzelle e vecchi ed altra gente che eran con lei venuti di Granata, tutti licenziò benignamente, dicendo: «Assai da me fia accompagnata. Io mastro, io balia, io le sarò sergente in tutti i suoi bisogni. Addio, brigata». Così, non gli possendo far riparo, piangendo e sospirando se ne andaro, tra lor dicendo: «Quanto doloroso ne sarà il padre, come il caso intenda, quanta ira, quanto duol ne avrà il suo sposo, o come ne farà vendetta orrenda. Deh, perché a tempo tanto bisognoso non è qui presso a far che costui renda il sangue illustre del re Stordilano prima che se lo porti più lontano?» Della gran preda il tartaro contento, che fortuna e valor gli ha posta innanzi, di trovar quel dal negro vestimento non par ch'abbia la fretta ch'avea dianzi. Correva dianzi, or viene adagio e lento, e pensa tuttavia dove si stanzi, dove ritruovi alcun commodo loco per esalar tanto amoroso foco. Tutta volta conforta Doralice, che avea di pianto e gli occhi e il viso molle, compone e finge molte cose e dice che per fama gran tempo ben le volle, e che la patria e il suo regno felice, che il nome di grandezza agli altri tolle, lasciò non per vedere o Spagna o Francia, ma sol per contemplar sua bella guancia. Se per amar l'uom debbe essere amato, merito il vostro amor, che v'ho amato io, se per stirpe di me chi è meglio nato, che il possente Agrican fu il padre mio, se per ricchezza chi ha di me più stato, che di dominio io cedo solo a Dio, se per valor credo oggi aver esperto, che essere amato per valore io merto. Queste parole ed altre assai, ch'amore a Mandricardo di sua bocca ditta, van dolcemente a consolare il core della donzella di paura afflitta. Il timor cessa, e poi cessa il dolore, che le avea quasi l'anima trafitta. Ella comincia con più pazienza a dar più grata al nuovo amante udienza. Poi con risposte più benigne molto a mostrarsegli affabile e cortese, e non negargli di fermar nel volto talor le luci di pietade accese, onde il pagan, che dallo stral fu colto altre volte d'amor, certezza prese, non che speranza, che la donna bella non saria ai suoi desir sempre ribella. Con questa compagnia, lieto e gioioso, che sì gli satisfà, sì gli diletta, essendo presso all'ora che riposa la fredda notte ogni animale alletta, vedendo il sol già basso e mezzo ascoso, cominciò a cavalcar con maggior fretta. Tanto ch'udì suonar zuffoli e canne e vide poi fumar ville e capanne. Erano pastorali alloggiamenti, miglior stanza e più comoda che bella. Quivi il guardian cortese degli armenti onorò il cavaliero e la donzella, tanto che si chiamar da lui contenti. Che non pur per cittadi e per castella, ma per tuguri ancora e per fienili, spesso si trovano gli uomini gentili. Quel che fosse di poi fatto all'oscuro tra Doralice e il figlio d'Agricane, appunto raccontar non m'assicuro, sì ch'al giudicio di ciascun rimane. Credersi può che ben d'accordo furo, che si levar più allegri la dimane, e Doralice ringraziò il pastore che nel suo albergo l'avea fatto onore. Abbiamo trasmesso l'ottava puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.